specchio, non trovi che non sembri neanche tu. Purtroppo sei quasi un vecchio, nell'alcol tu affoghi sempre più. Eppure tu eri un divo, sublime come un dio. Tu non perdevi mai. Successo al tuo successo, dove hai sbagliato, presuntuoso uomo. Sei tu, sei eterno, questo è l'inferno, non sai neanche a chi chieder perdono. Perduto, l'autoritratto adesso è scolorito.